e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Odio i lunedì. Tornati dalle ferie, già provate un certo fastidio per il lunedì, allora restate con cuore e denari, perché noi siamo pronti ad addolcirvelo questo rientro, questo inizio di settimana, vero Nicoletta? Siamo qua apposta. Non possiamo chiamarlo questo lunedì, perché intanto segna l'inizio di una nuova settimana speciale, una settimana di cuore e denari, come avete sentito nelle anticipazioni che abbiamo fatto poco fa, in diretta da Cibus e Italia all'interno di Expo, così come tanti altri programmi di Radio 24, anzi approfittatene per venirci. Dai, fate un salto qui, lo studio di Radio 24 è situato appunto all'ingresso del padiglione Cibus Italia nella zona est di Expo, saremo qui con i nostri ospiti, sappiamo che tanti si stanno affrettando a visitare i padiglioni dell'esposizione universale in questi ultimi mesi di apertura, rimarrà attiva fino alla fine di ottobre, al 31 di ottobre, quindi se siete tra questi potrete fare un salto, prendervi una piccola pausa con noi, fare una chiacchiera, ricaricarvi, chiederci un consiglio e tornare a fare avanti Andre insieme ai tanti visitatori tra Cardo e Decumano alla scoperta dei bellissimi padiglioni di Expo. È vero, io mi sono fatta una bella scarpinata su tutto il Decumano proprio sabato scorso. Non mi vedi più in forma? I piedi come vanno? Allora, mi fanno un po' male. No, ho provato una scarpa con un tacco nuova e ovviamente l'ho pagata, c'ho la vescichina ovviamente. Perché anche i piedi soffrono della sindrome da rientro. Che sabato dall'acquazzone di sabato mattina poi è esploso questo sole, quindi sui piedi. Ma vabbè, insomma, a proposito di Andy Rivieni e di oscillazioni in avanti e indietro, in un certo senso ne parliamo anche noi questa mattina, sì. Non di quelle dei visitatori appunto di Expo. Per la pagina di denari ci dedichiamo alle oscillazioni dei prezzi degli alimenti che si fanno sentire sul nostro carrello della spesa e che sono la conseguenza anche di altre oscillazioni, di quelle delle borse. Abbiamo visto che cosa è successo nel mese di agosto e in particolare dei dati delle materie prime, le commodities, un tema che osserviamo con grande attenzione, ma noi vi chiediamo, naturalmente vi testiamo e quindi raccontateci all'800 24 00 24 se anche voi avete notato qualche oscillazione particolare nei prezzi al supermercato in questi giorni e se cambierà qualcosa nel vostro modo di fare la spesa alla ripresa della quotidianità di questo autunno 2015. Deborah, e a proposito di carrello della spesa, pensa com'è cambiato quello di Adele, la cantante, sì, diventata vegetariana, quindi ha eliminato carne e pesce, forse però sta già virando sul vegano. Immagino che abbia fatto comunque piazza pulita, anche salse, salsine, bevande gasate, dei suoi adorati cupcake, poi io non è che sono intima, non ho mai mangiato con lei, ma deve avere dato sicuramente un bel giro di vita per arrivare a perdere, notizia, tutti i giornali in questi giorni ne parlano, 30 kg, insomma una Adele nuova. E come spesso succede, cambiamento tira cambiamento, infatti ha smesso di fumare e si è data al Pilates, una vera e propria rivoluzione, forse sicuramente faticosa ma senz'altro salutare. Noi oggi parleremo delle piccole grandi rivoluzioni che hanno o stanno segnando il nostro stile di vita, con particolare attenzione al nostro stile alimentare, nel bene o nel male. A dirlo non è, lo sappiamo, sempre solo la bilancia, ma anche il livello di energia, il funzionamento del nostro intestino, lo stato di pelle, unghie e capelli e, perché no, anche la nostra prontezza nel fare le cose, nell'apprendere, nel ricordarle. Insomma, siete cambiati? Come state? Notate dei cambiamenti? Iniziamo da quelli più visibili che notate o che vi fanno notare, ad esempio gli amici quando siete tornati dalle vacanze, che cosa vi hanno detto e che cosa dice il vostro specchio e il vostro intestino, il vostro sonno, buono, disturbato, insomma raccontateci, fateci le vostre richieste e noi proveremo come sempre a darvi una spiegazione, ma soprattutto un consiglio. Dai, usciamo a fare la spesa, mandaranci, mele, frutti esotici. La nostra canzone che ci ha accompagnato per tante settimane per il nostro percorso Cuore Denari ed Expo, e noi siamo ad Expo, il tema lo sapete è quello del nutrire il pianeta, energia per la vita, per cui ovviamente Cuore Denari non può esimersi dal fare un punto della situazione su questo argomento. Lo facciamo naturalmente come sempre con la nostra chiave di lettura per quanto riguarda i denari. Iniziamo allora dalla nostra spesa alimentare, potremmo intitolare questa puntata le sfide autunnali del carrello della spesa oltre che del nostro portafoglio. La prima riflessione riflessione che ci viene in mente di fare è quella sulle abitudini appunto di spesa degli italiani. Ciclicamente ci occupiamo del carrello della spesa. In questo settembre ci sembra particolarmente utile farlo, perché quello che è successo nei mercati finanziari ad agosto probabilmente non lascerà indenne la nostra spesa quotidiana. La crisi cinese ha portato con sé un drastico calo dei prezzi delle materie prime. Molti attribuiscono questo calo al fatto che, appunto, proprio perché sta rivoluzionando il suo modo di consumare, la Cina chiaramente ne approvvigiona in quantità molto inferiori rispetto al passato. Proprio stamattina, peraltro, è stato diffuso il dato definitivo del PIL 2014 cinese. C'è una revisione al ribasso, poverini, sono cresciuti solo del 7,3%, noi neanche in 10 anni facciamo una crescita di questo tipo. Vi faccio qualche esempio sui cali più drastici dei prezzi delle materie prime dall'inizio dell'anno. È sceso molto il caffè di circa il 30%, il grano, i prezzi sono scesi di circa il 30%, il tè meno 40%, abbiamo meno 37% dell'olio di palma, un tema che abbiamo anche affrontato. E che ha tante implicazioni, forse anche quelle che abbiamo raccontato ha avuto un'implicazione sull'andamento delle quotazioni. Allora, siccome queste materie prime spesso compongono, formano anche gli alimenti che acquistiamo quotidianamente, vorremmo chiederci che impatto ci sarà sulla nostra spesa mensile al supermercato. Per questo abbiamo obbligato a venire qui ad Expo due ospiti. Salutiamo Stefano Crippa, responsabile delle relazioni esterne di Feder Distribuzione, benvenuto, grazie. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Feder Distribuzione è l'organizzazione della grande distribuzione, quindi insomma tutte le insegne dei supermercati che noi frequentiamo abitualmente poi sono tutte radunate sotto un unico grande brand che è appunto Feder, certo. Distribuzione. Poi abbiamo scelto di concentrarci su una materia prima, in particolare il riso, e non l'abbiamo scelto per via della crisi cinese, ma magari un commento potremmo anche farlo su questo. È un prodotto però, e qui ad Expo c'è anche il cluster di questo alimento, molto importante per la nostra tavola e per l'economia italiana. Buongiorno a Paolo Carrà, commissario Ente Risi, benvenuto. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno. E naturalmente microfoni aperti agli ascoltatori. Non è che siamo in trasferta e loro non possono chiamare? Certo, possono come sempre chiamarci all'800 24 00 24. Stiamo già salutando degli amici che ci sono venuti a trovare e che hanno già fatto incetta dei nostri gadget, vedo con il nostro cappellino, sì. in circolazione appunto alcuni dei è nostri. È molto donante il cappellino di Radio 24. Messaggi come sempre al 349 238 6666. Altro consumo, recentemente pubblicato un'indagine sulle abitudini degli italiani al supermercato. Si parla di spesa più contenuta ma più attenta, consumatori che stanno diventando quasi ossessionati, assillati dalla crisi. Vi sentite così quando entrate al supermercato? Avete notato qualche aumento o qualche calo dei prezzi dopo gli ultimi crolli di borsa? In generale ci fate più attenzione? Quali impegni vi siete presi tornando dalle ferie rispetto al vostro modo di comprare ciò che scegliete di portare a tavola? Quindi avete anche in questo caso, visto che da tanti anni utilizziamo questo concetto, quello della spending review, applicato a molti ambiti dell'economia, la state rimettendo in pista anche per questo autunno 2015. Allora, Crippa, cominciamo subito la nostra chiacchierata. Feder Distribuzione già alle prese con le previsioni autunnali sui consumi degli italiani. Come si caratterizzerà, secondo voi, quest'ultima parte dell'anno? Beh, bisogna dire che quest'anno, per la prima volta dopo tanti anni, qualche piccolo e debole segnale di ripresa delle vendite c'è. Siamo ancora su dei valori molto contenuti, insomma siamo meno dell'1%, però devo dire che finora negli ultimi 2 o 3 anni sono sempre stati dei meno, quindi questo ci fa un po' sperare. Questo più. Festeggiamo questo piccolo più. Irrobustito peraltro nel periodo estivo, perché i 2 mesi di luglio e agosto sono andati un pochino meglio rispetto a questo 1%. È vero che è stata un'estate molto calda, soprattutto nella prima parte, e quindi le vendite sono state trainate anche dai prodotti tipicamente estivi, bevande, gelati, carne in scatola, eccetera. Quindi diciamo che lo spirito col quale guardiamo i mesi autunnali è quello di attesa nel vedere qualche conferma di questo piccolo cambiamento. Noi siamo pronti, nel senso che noi non cambieremo assolutamente le nostre politiche di convenienza che abbiamo fatto fino a questo momento, perché bisogna assolutamente assecondare questi segnali che abbiamo dai consumatori. Quindi in questo momento i prezzi sono ancora bassi, stiamo parlando di un'inflazione che l'Istat dice circa lo 0,7%, da noi ancora un pochino meno, se prendiamo il periodo dall'inizio dell'anno siamo intorno allo 0,5%, quindi i prezzi sono bassi, le promozioni sono ancora molto sostenute, nel mondo degli ipermercati arriviamo addirittura al 35%, quindi e questa è una condizione che rimarrà sicuramente anche per autunno, quindi bene. Ripercussioni sulla crisi finanziaria d'agosto, è ragionevole aspettarsene? Secondo lei è presto per dire se ci saranno meno? Allora, io credo che l'effetto di queste crisi agostane, o comunque in generale queste crisi che vediamo sulle borse, sono al di là del, naturalmente, del fatto che comunque hanno diminuito i patrimoni, nel senso che se uno aveva delle azioni in borsa se le veste con una quotazione più bassa, e quindi questo naturalmente induce un senso di insicurezza. E l'effetto psicologico secondo me è quello più preoccupante, nel senso che trasmettono l'idea che siamo in un contesto complessivo nel quale ormai l'Italia gioca, un contesto internazionale, ancora non avviato saldamente verso un percorso di ripresa, che possono accadere eventi in qualsiasi parte del mondo, la Grecia, l'Ucraina, adesso la Cina, che possono frenare quello che è anche il contesto di sviluppo italiano. E gli effetti psicologici sono molto importanti, perché noi stiamo vivendo un momento in cui le famiglie qualche disponibilità in più ce l'hanno, perché i risparmi stanno aumentando. Risparmiano di più perché consumano un po' meno da negli ultimi anni, perché il mercato del lavoro comunque è sempre in sofferenza, bisogna vedere come questo reddito si redistribuisce, certo, no, all'interno perché, del reddito di perché c'è famiglia. Ancora un po' di preoccupazione sul futuro. In questo momento, se uno mette insieme tutti i numeri, c'è una spesa alimentare che dà qualche piccolo segnale di ripresa, però ci sono le auto che stanno andando molto bene, sì. Gli elettrodomestici hanno ricominciato a essere comprati dagli italiani, mutui sono in erogazione, per esempio mancano ancora i consumi di abbigliamento, mobili, casalinghi, cioè tutta quell'area del non alimentare che è ancora abbastanza ferma, quindi vuol dire che il consumatore è ancora costretto a fare delle scelte, cioè non ha ancora quella fiducia nel futuro proprio del sistema economico. Oppure si spreca famiglia. Un po' meno, che dici? Forse una rimodulazione del carrello della spesa, Nicoletta, sicuramente, è legata probabilmente anche a questo. Si spreca anche meno, informazione, c'è vero. Più consapevolezza, sì, più informazione, e quindi anche il consumatore si orienta con più oculatezza. Certamente. Quando deve fare delle scelte al supermercato. Intanto, allora, c'è Gabriella che ci scrive: sto venendo ad Expo, dove vi trovo? Allora ribadiamo la cartina geografica, praticamente siamo al padiglione Cibus Italia, quello di Federalimentare, siamo ospiti appunto di questa organizzazione. Per venirci a trovare più velocemente, se vuole entrare e vederci subito, l'ingresso è Roserio, è preferibile entrare da questa parte a nord rispetto per esempio alla fermata della metropolitana di Milano. Quanto ai prezzi, Paolo ci segnala forti aumenti di olio d'oliva e olive in generale legati all'ultimo raccolto. Qualche cosa da osservare? Conferma? È così, assolutamente. È la categoria che sta aumentando di più in questo momento, ma è proprio legato alla scarsità del raccolto, certo, che c'è stato, e quindi benissimo. Un gioco di domande e offerte. Dottor Carrà, noi adesso dobbiamo sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, il traffico, poi cominciamo con lei una bella chiacchierata sul mondo riso italiano. A tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento. Cuore e denari. Eccoci tornati a Cuore e denari in diretta da Cibus Italia all'interno di Expo, sempre con noi Stefano Crippa, responsabile area relazioni esterne di Feder Distribuzione. Abbiamo cercato, leggendo la nostra sfera di cristallo, di fare qualche previsione sull'andamento del carrello della spesa autunnale, come saranno i prezzi, come potranno essere condizionati anche dagli scenari finanziari un po' complicati che si sono determinati nelle ultime settimane per la crisi cinese. E adesso cominciamo la nostra chiacchierata, se volete intervenite naturalmente 800 24 00 24 con Paolo Carrà, commissario ente Risi. Prima di tutto, dottor Carrà, il biglietto da visita di questa organizzazione. Sì, l'ente nazionale Risi è un ente pubblico economico vigilato dal Ministero dell'Agricoltura. Siamo il braccio operativo per quanto riguarda il riso a livello nazionale del Ministero. Ci occupiamo di ricerca, che significa sia genetica, per trovare nuove varietà. Un esempio, il Carnaroli, costituito nel 1947, noi lo manteniamo in purezza, cioè garantiamo che al consumatore al giorno d'oggi arriva sempre il riso originario del 1947. Ci occupiamo di ricerche e indagini di mercato. Ogni pacchetto di riso che viene fatto è da noi monitorato, dal produttore fino a quando arriva al trasformatore, e soprattutto è un ente un po' particolare, un ente di filiera, unico in Italia, significa che è gestito direttamente dai produttori e dai trasformatori. Un ente di filiera. Un ente di filiera. Così. Ottimo. Allora, come sa lei, dottor Carrà, le abbiamo spiegato appunto che qui a Cuore Denari non ci concentriamo sugli aspetti economici più alti, guardiamo come dire, ai mondi che affrontiamo dal punto di vista del consumatore. Ci può fare un quadro della situazione attuale del mercato del riso in Italia, però anche magari con qualche dato relativo un po' agli scenari internazionali? Ho detto prima che il prezzo, le quotazioni sono scese molto, no? A livello internazionale, se andiamo a guardare le zone dove il riso appunto viene negoziato come materia prima, ci conferma questo trend? Che ripercussioni ci sono state in Italia? Sì, a livello internazionale il trend è in diminuzione, ma tenete presente che il riso nel mondo è considerato commodities, in Europa è considerato qualcosa di diverso. Anche in Italia comunque stiamo subendo una diminuzione delle quotazioni, anche per quanto riguarda soprattutto i risi, diciamo, da risotto, ma quelli che stanno per essere più penalizzati sono i cosiddetti risi indica, in quanto stanno subendo la concorrenza di paesi stranieri, Cambogia e Myanmar ad esempio, in quanto l'Unione Europea ha concesso delle esportazioni ad dazio zero. Adesso si avvicina anche il problema del Vietnam, ultima, diciamo, perla di questa Unione Europea, e quindi anche con questa dovremmo confrontarci. E vi state già confrontando? Avete già manifestato il vostro disappunto su queste decisioni? No, non ancora come gli amici della zootecnia, ma credo che presto bisognerà farlo. Il vecchio detto che dobbiamo difenderci da chi ci dovrebbe difendere, secondo me, è sempre attuale. Tenga comunque presente che in Italia abbiamo da un lato il problema dell'importazione, ma dall'altro dobbiamo sicuramente spingere per una connotazione del prodotto nazionale. Questo non si è fatto fino ad oggi. Non ha una certificazione tipo una DOP, una IGP riso? Sul riso esiste una DOP e due IGP, una nella la DOP è della baraggia Vercellese e Biellese, le IGP sono del Veronese col Virone Nano e il Delta del Po. Però abbiamo, come Interisi già negli anni fa, definito un marchio, che è il marchio riso italiano, che i consumatori possono trovare sulle confezioni di quelle industrie risiere che lo adottano, che sono i tre chicchi verde, bianco e rosso con scritto sotto riso italiano, ed è un marchio certificato. Vedo che Nicoletta sono dice, informata. L'hai sì, visto? Sì. Non io ancora. Senta, ma allora deve venire un po' a fare capire. La spesa con me, Deborah, guardi. Credo proprio che sia arrivata l'ora e anche suonata da un bel pezzo, aggiungerei. Ma allora lei ci stava raccontando di come questo riso cambogiano, quello di Myanmar, quindi Birmania, e presto quello vietnamita, appunto, lo potremo trovare direttamente sugli scaffali del supermercato, ma sarà ben chiaro che arriverà da questi prodotti o ci saranno produttori italiani che mischieranno e noi non ce ne renderemo conto? Mi dia subito qualche informazione pratica per gli ascoltatori. Allora, la novità è che queste importazioni, mentre fino a qualche anno fa erano legate al riso cosiddetto semigregio, cioè che aveva subito una prima lavorazione, adesso sono invece anche importazioni di riso bianco già confezionato. Sicuramente nei negozi etnici ci sono già questi prodotti. Sul fatto che un produttore, un trasformatore possa miscelare un riso straniero con un riso italiano, questo è possibile, questo è quello che noi ad esempio combattere, diciamo. Sì, abbiamo redatto una bozza nuova della legge del mercato del riso, dove tra le altre cose indichiamo, diciamo, che il riso proveniente dall'estero deve essere indicato col nome della propria varietà. Però questo è il grande problema della etichettatura e della lotta che continua a essere fatta in Unione Europea, perché i paesi dell'area mediterranea vogliono l'indicazione dell'origine, i paesi forti del nord Europa non la vogliono, perché ovviamente sono importatori. Certo, senta, adesso parleremo di quanto riso consumano gli italiani, ma su queste battaglie c'è sensibilità da parte del consumatore italiano, ne ha conoscenza, vi è vicino, oppure si fa un po' fatica anche a trasmettere i messaggi che certe organizzazioni come la vostra appunto cercano di portare avanti anche con delle battaglie su sedi internazionali anche di un certo peso, insomma. Il percorso sicuramente è iniziato, però è un percorso giovane. Il riso anche in Italia è sempre stato visto con la vecchia riforma degli anni 80 come un prodotto di commodities, quindi si parlava di navi. Oggi invece c'è questo stretto legame tra il riso, ad esempio, e il territorio. È anche uno dei temi qui a Cibus Italia, dove noi esponiamo il nostro stand, è proprio quello di mettere in relazione il prodotto con il territorio, perché il riso è strettamente legato al territorio, più di ogni altra cultura. Allora, 800240024, naturalmente vi invitiamo ad intervenire in diretta sul tema di questa mattina. Al volo potete anche portarci la vostra ricettina sul vostro risotto meglio riuscito in casa, no? Perché certo, come utilizzate il riso. Ne stavamo parlando proprio a microfoni spenti con le varie modalità con cui oggi possiamo sbizzarrirci, infatti, no? Infatti vogliamo sapere ad esempio se usate di più il riso integrale o il riso bianco, come lo usate, perché poi nella seconda parte della trasmissione continueremo a parlare di cambiamenti anche che si sono verificati a partire dal carrello della spesa, ma naturalmente sulla nostra tavola. L'estate a volte lascia il segno e quindi a volte bisogna davvero cambiare. Qualcuno in realtà, come dire, oltre a guarire il mal di pancia tradizionalmente quando si ha qualche disturbo intestinale si passa subito a riso in bianco e tè. Sì, ma poi ti darò delle ricettine proprio per aiutare la nostra pancia a ritrovare il ritmo. Ci sarà la dottoressa Villarini e una è proprio con il riso. Certo, allora prima di andare un po' a scandagliare le abitudini delle famiglie italiane in rapporto al riso per capire anche quali varietà preferiscono, Crippa, Feder Distribuzione, volevo fare un altro commento con lei un po' sugli scenari di carattere generale. La COP settimana scorsa ha diffuso il suo rapporto annuale che viene sempre letto con grande attenzione perché riescono veramente ad individuare delle tendenze interessanti. Allora, qualche segnale, devo chiudere? Dobbiamo andare al giornale radio? Va bene, Crippa ha più tempo per prepararsi sulla risposta su questo argomento. Però che fortuna, fortuna. Ma non era una domanda tanto sorpresa. Allora passiamo alla linea a Milano, c'è il giornale radio, noi torniamo subito dopo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Alle porte dell'Europa, Radio 24, lungo le rotte della migrazione. Subotiz, Edirne, Chop, Kos e Lampedusa. Sono le porte dell'Europa, luoghi di una frontiera su cui preme l'ondata migratoria di chi fugge da guerre e disperazione. Nel mese di settembre, Radio 24, con i suoi inviati, vi porterà ai confini di un continente che si sente sotto assedio. Ogni venerdì, nei GR, in effetto giorno e in effetto notte. Il sabato mattina, nel reportage europeo. Cuore e denari. Siamo tornati, cambiamenti, variazioni di prezzi nel carrello della spesa. Sicuramente dopo le vacanze siete passati al supermercato, all'ipermercato. Che cosa avete addocchiato? Che cosa vi è sembrato più caro o più a buon mercato? 800 24 00 24. Ce ne stiamo occupando nella parte di denari. Tra poco parleremo anche di altre variazioni, variazioni di peso, perché l'estate a volte, lo sappiamo, arrotonda. In altri casi invece scolpisce. A voi com'è andata? Chiamateci, perché non solo di chili vorremmo occuparci oggi, ma anche di variazioni del nostro stato di benessere generale in seguito proprio ai cambiamenti del nostro stile di vita e del nostro stile alimentare. Chiamateci e diteci, suggeriteci la vostra ricetta per stare bene o per tornare a farlo. In linea con noi tra pochissimo la dottoressa Anna Villarini, che è biologo nutrizionista dell'Istituto dei Tumori di Milano. Una monetina a te, una te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti. Ma anche facendo attenzione al carrello della spesa si può risparmiare qualche monetina, e devo dire che gli italiani negli ultimi anni sono stati molto attenti a come compongono il carrello della spesa, più che altro che stare attenti alla, come dire, quantità di quello che comprano e ai prezzi di ciò che comprano. Stefano Crippa, sono molto attenti anche alla qualità degli italiani, quindi hanno, come dire, condotto le loro strategie di risparmio ovviamente anche percorrendo questo terreno. Sì, è così. Quello che abbiamo notato nella frequentazione dei nostri appuntamenti è proprio questo, cioè in generale naturalmente la crisi ha portato comunque anche a comprare un po' di meno, ma l'effetto più importante della crisi è stato proprio una sorta di ribilanciamento della propria spesa, cercando di mettere insieme quelle che sono le esigenze, comunque dover magari dar da mangiare a una famiglia di 4 persone, rispettando però anche quelle che sono un po' le, i desideri, e quindi cercare di mantenere il proprio tenore di vita. E allora per esempio lo stesso consumatore in questo momento può comprare i prodotti biologici perché vuole mettere particolare attenzione all'alimentazione, magari soltanto in alcune categorie di prodotto, e poi per i detersivi per esempio andare a comprare al discount, perché cioè, invece ha un valore per lui minore la detergenza del capo d'abbigliamento rispetto all'alimentazione. E quindi, con gli indolori della lavatrice poi magari, ma questo è un altro argomento sì, che affronteremo magari quando avremo terminato il nostro percorso ad Expo. In realtà avevamo lanciato prima della pubblicità del giornale radio col dottor Crippa così la voglia di commentare un po' quanto aveva decretato il rapporto annuale di COP, che aveva parlato settimana scorsa di italiani che si sentono più poveri anche se una lenta ripresa è stata agganciata, per cui loro hanno confermato che effettivamente al supermercato si fa ancora attenzione a non spendere troppo. Ma volevo soffermarmi sulle iniziative della grande distribuzione Crippa. Proprio a microfoni spenti commentavamo di una iniziativa molto importante che sta lanciando in questo periodo, un'insegna molto famosa soprattutto nel nord Italia. Detto questo, come sono orientate in questo momento le politiche delle insegne della grande distribuzione? Sconti, promozioni, 50%, su quali generi sono possibili iniziative di sconto molto rilevanti per le famiglie? Ma come abbiamo detto, noi in questo momento stiamo cercando di fare tutto il possibile per assecondare questa piccola voglia di ripresa che vediamo all'interno delle famiglie. Quindi quello che posso dire è sicuramente la nostra politica di convenienza commerciale che abbiamo sviluppato fino a questo momento andrà avanti. Quindi continueremo a fare le promozioni, ma non sono solo le promozioni quella che la grande distribuzione ha messo in atto. Ci sono delle insegne che hanno sviluppato anche nuove formule commerciali, per cui le promozioni non ci sono più, ma c'è il prezzo basso tutti i giorni. E questo è molto importante perché per esempio toglie l'ansia di dover continuamente cercare all'interno del punto vendita o addirittura anche all'interno di diverse insegne quello che offre in quel momento il prodotto più conveniente. Tu hai la tua insegna, sei sicuro che ti garantisce un prezzo basso sempre e hai più tranquillità nel fare la tua spesa, soprattutto per esempio sul marchio dell'insegna, sulla quale continueremo a puntare moltissimo perché rappresenta secondo noi un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Si stanno sviluppando, stanno entrando. Dovremmo fare una puntata esclusivamente dedicata a questo, sì, perché molti ascoltatori si chiedono chi produce per l'insegna appunto della grande distribuzione, perché c'è sempre un po' la sensazione che siano gli stessi identici prodotti che hanno una confezione diversa e che riescono ad essere piazzati sul mercato, non si sa attraverso quali logiche, appunto a prezzi molto inferiori. Ma non possiamo bruciarci oggi l'argomento perché non abbiamo tempo. Devo andare ancora al riso. Allora, guarda cosa ci scrive Gabriella su Twitter. Riso Venere nei giorni snob, Basmati nei giorni no e Carnaroli per fare bella figura. Perché questo Basmati viene un po' associato alla depressione, dottor Carrà. Invece è profumato il Basmati, o sbaglio? Il Basmati è un riso profumato. L'ascoltatrice comunque fa piacere che su 3 risi ne individuati 2 di origine italiana e 1 no, perché il Basmati per legge proviene solo dall'India, quindi se sulle confezioni leggete basmati italiano e non frode, non può esistere il basmati, è un riso profumato. Esatto. Gabriella è rappresentativa dei gusti degli italiani. Quali preferiscono gli italiani di varietà di riso, dottor Carrà? Ma sicuramente il Carnaroli e l'Arborio sono due nomi di due varietà che ormai sono entrati nel comune uso dei consumatori. Poi a seconda delle aree geografiche, perché a Roma l'Arborio tiene molto di più del Carnaroli, nel nord Italia è più conosciuto il Carnaroli, anche il Baldo, e in Roma sono altre varietà. E poi abbiamo i cosiddetti risi colorati, il Venere sicuramente tra le varietà nere è quello più conosciuto, ma abbiamo anche il oggi rosso. I risi rossi, quindi è una nicchietta che comunque è una nicchia in espansione. Sono risi integrali, i nutrizionisti e i medici consigliano di mangiare il riso integrale perché è nutrizionalmente più ricco di quello bianco, perché dal processo di raffinazione il riso esce impoverito di tutte quelle caratteristiche che invece sono preziose, ma adesso ci sono delle aziende che mettono mettono in commercio dei risi integrali con cotture rapide, forse per ovviare a questo problema, perché il riso integrale richiede delle cotture un po' impegnative, lunghe, 40-45 minuti. È vero che uno nel frattempo può fare una lavatrice, esatto, può leggersi un libro, può pulire le verdure, insomma non è che devi stare lì a covarlo mentre cuoce, però insomma la cottura lunga mette sempre un po' in crisi. Sì, oggi lo si trova sullo scaffale dei risi che sono già diciamo pronti, nel senso da mettere nel microonde, perché subiscono un processo termico precedente. Quello che è però interessante del riso, che è definito prodotto salobre, è perché subisce una leggera lavorazione meccanica, ed è questo che lo rende un prodotto salutare. Vedi? Capito, quindi riso, eh. riso. Tra l'altro abbiamo delle varietà che hanno reso i risotti italiani celebri nel mondo. Lei ha citato il Carnaroli, ma con quale altra varietà lei suggerisce di fare il risotto? Beh, io sono piemontese, quindi non vorrei essere lei di campo. Lei è anche un produttore, sono un produttore di riso, quindi per me in Roma il Baldo sono altre due varietà importanti, il Vialone Nano, più piccolino. Che è più piccolino, quindi è particolare, vedo che Ma quante ne so? È assolutamente un'esperta. E poi abbiamo anche il Sant'Andrea che rientra tra le DOP, ad esempio. È un esperto anche Elvio da Bergamo che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Elvio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Vedi che noi non possiamo fare una trasmissione senza un cuoco quando siamo qui ad Expo, non c'è niente da fare, se non lo portiamo noi ci chiamano. Ma siete seguiti, quindi lo meritate, assolutamente. Grazie Elvio. Niente. Allora, cosa voleva raccontarci? Beh, due cose, visto che siete ad Expo, io mi occupo di promozione del territorio tramite la gastronomia e il turismo, e per quanto riguarda il riso, un po' di anni fa avevo presentato una fiera di Rimini, il Milà, che è una pasta dedicata a Milano, con all'interno zafferano e a base di riso. Questa è la prima chicca. La seconda chicca invece è che sono stato responsabile di due festival del risotto a Biella e a Sanremo, e conosco il riso di Baraggia. E quindi probabilmente il vostro ospite sa di cosa sto parlando. Di che cosa sta parlando? Insomma, Elvio le manca solamente di cucinare per me Nicoletta, poi lei ha fatto tutto, perché tra festival, promozione e quant'altro. Grazie molte per la sua testimonianza. Di che riso sta parlando? Sì, il riso di Baraggia. La Baraggia vercellese e biellese è l'unica DOP in Italia. Tra le varietà delle DOP ci sono quelle che vi ho detto prima. C'è il Carnaroli, c'è il Sant'Andrea, che è tipico, e la differenza tra una DOP e un IGP è che la DOP, oltre che essere coltivato, deve essere anche trasformato in loco e confezionato. Benissimo. Allora, sai che io qua stando ad Expo con questa illuminazione vediamo poco, non so neanche che ore siano, se dobbiamo sentiamo andare... ancora Francesco da Milano. Benissimo. E poi salutiamo la prossima ospite. Ottimo. Anzi, io la saluterei, ma perché sì, ma magari vuole dire qualcosa sul riso la dottoressa Anna Villarini, che è in linea con noi, biologo nutrizionista dell'Istituto dei Tumori di Milano, sicuramente ci racconterà qualche cosa di interessante. Buongiorno dottoressa Villarini. Buongiorno a voi. Stia lì, perché noi parleremo con lei di variazioni di peso, del nostro stato di benessere, parleremo anche di come utilizzare il riso per una dieta sana ed equilibrata, anche dei rimedi che, ricordo, il dottor Berrino, con cui lei ha lavorato, il grande Franco Berrino, suggeriva per chi ha la pancia un po' in disordine. Avevamo però invitato Francesco, esatto, che ci chiamava da Milano. Buongiorno. Ci fa tornare un po' sui trend economici legati alle quotazioni. Francesco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Io avevo una domanda molto veloce, volevo sapere se i risi che provengono e proverranno magari da Vietnam, Myanmar o quant'altro potessero avere delle problematiche dal punto di vista di salute per la trasformazione o per il trattamento, non so, o se fosse semplicemente un tentativo di tutela economica giusta e sacrosanta. Mm-hmm. Certo, quindi vuole sapere il motivo per cui magari certe battaglie, ovviamente a parte il fatto che l'Italia deve difendere le sue produzioni, mi sembra abbastanza scontato che una battaglia da questo punto di vista, non dico esageratamente protezionistica, ma un po' si faccia, però ci sono anche delle problematiche legate alla qualità di questi prodotti? Ma sì, prima cosa voglio dire che in tutto il mondo ogni Stato fa la protezione delle proprie produzioni alimentari. Provate ad esportare del riso in Cina, in America o in India, riso italiano, noi abbiamo visto che è difficilissimo, perché le barriere non tariffarie, ma delle barriere ad esempio igienico-sanitarie o anche solo di natura burocratica vengono messe. Quindi il discorso protezionistico non è tale, è però che noi non difendiamo la nostra produzione. Beh, in effetti c'è un sistema europeo che si chiama Rapid Alarm System, nel quale alle dogane vengono monitorati i prodotti. Generalmente oggi assistiamo a prodotti provenienti dalla Cina per quanto riguarda gli OGM. Il riso ha una particolarità, che avendo questa lavorazione meccanica, quindi per abrasione, quindi viene asportato la parte esterna, eventuali residui non rimangono. Noi ad oggi non abbiamo, però io ho chiesto all'ufficio centrale delle dogane di Roma di avere un report su quello che è stato fatto in particolar modo su questi prodotti. La prima lettera è datata 2014, ancora le devono rispondere. Un mese fa non mi hanno ancora risposto. Ecco, ci sono delle persone che hanno l'abitudine di non rispondere mai, ne conosciamo anche noi. Dottoressa Villarini, la coinvolgo subito, prima di occuparci di una cantante che ha così catturato la nostra attenzione, Adele, ha avuto una variazione di peso significativa. Riguardo al riso, dottoressa Villarini, anticipava al dottor Carrà che voi medici siete... sì, ero un po' scosciata, mamma mia. Voi medici siete soliti consigliare il consumo di riso integrale, giusto? Giustissimo, perché il riso integrale è molto più ricco di nutrienti, ma principalmente perché la presenza delle fibre riduce l'indice glicemico, cioè si assorbe meno velocemente l'amido che fa parte del riso all'interno del nostro intestino, e questo è molto importante perché noi sappiamo che questi picchi di glicemia quando è raffinato non fanno così bene alla salute. Ma se io abbino il riso raffinato, come mi suggeriva il dottor Carrà fuori onda, vediamo se mi ha dato un consiglio giusto o se l'abbiamo subito sgamato, ha della fibra, lui dice ad esempio, è difficile che si mangi solamente il riso bianco, tout court, magari abbinato a qualche verdura, riesco in qualche modo ad addomesticare l'indice glicemico a mio favore? Molto poco, molto poco. Molto poco. No, perché la fibra aggiunta rallenta un pochino, ma poco, magari con dei legumi può aiutare un po' di più, ma non è paragonabile all'assorbimento che abbiamo quando il riso invece è integrale, che è completamente diverso e molto più lento, e poi oltretutto l'integrale si porta dietro tante sostanze, vitamine, sali minerali, quindi è proprio una ricchezza che il raffinato perde completamente. Va bene, vi metterò poi in contatto con il dottor Carrà, magari la dottoressa Villarini vi darà dei modi, dei suggerimenti per farlo rientrare questo prezioso alimento nella nostra dieta. Noi intanto, dottor Crippa e il dottor Carrà, li dobbiamo salutare. Voglio solo 30 secondi flash con Crippa, perché molti ascoltatori ovviamente li abbiamo invitati a fare il check-up del proprio carrello della spesa in relazione ai prezzi, che cosa stanno notando. Abbiamo citato il mondo delle materie prime che ha avuto delle oscillazioni di prezzo molto rilevanti, il caffè, ha associato un ascoltatore l'andamento delle quotazioni del caffè e quello della benzina, perché noi effettivamente abbiamo detto che la materia prima come prezzo è scesa molto dall'inizio dell'anno, ma il pacchetto di caffè al supermercato lo paghiamo sempre nello stesso modo ed è anche molto difficilmente oggetto di grandi sconti e promozioni il caffè in genere. No, mi sbaglio? O quello no, che cerco io? No. È sempre l'inchiodato a quel prezzo. In realtà il caffè è una delle categorie sulle quali le promozioni sono abbastanza regolari, quindi c'è sempre la possibilità di comprare un prodotto in promozione. Comunque il prezzo della materia prima influenza senz'altro il prezzo finale del prodotto, quindi il problema è che il ciclo è un po' lungo, quindi dalla materia prima, dal calo della materia prima bisogna aspettare un po'. È la filiera, insomma. Esatto, però senz'altro anche il prezzo di vendita oscilla come oscillano le materie prime, soprattutto quando sono di queste variazioni. Grazie al dottor Carrà, Ente Risi, Stefano Crippa, Feder Distribuzione. Noi grazie, ritorniamo alle nostre altre oscillazioni, quelle del Giro Vita. Assolutamente, non solo del Giro Vita, intanto diteci se l'estate vi ha regalato una forma più morbida. Da 800 24 00 24, ma vogliamo capire anche se dopo l'estate il vostro stato di benessere è cambiato, perché molto probabilmente alcuni disagi, disturbi con cui vi confrontate, penso a chi soffre di insonnia, a chi ha l'intestino che fa un po' le bizze, penso a quel calo di energia, a quel sentirsi stanco, forse proprio derivano da dei cambi di stile alimentare che abbiamo adottato in vacanza. 800 24 00 24. Adesso però, dato che l'abbiamo citata, ce l'ascoltiamo? Sì, Adele, dai, così che è così cambiata, ma la sua voce. Esatto, chi non avesse capito di chi stiamo parlando con questa canzone famosissima se la ricorda al volo di certo. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Don't l'avete riconosciuta, l'abbiamo citata, è l'artista britannica Adele, Oscar per la migliore canzone nel 2013 con Skyfall, giusto? Sì, pronunciato sì. Corretto, che ha venduto nella sua carriera, pensate, oltre 20 milioni di singoli, insomma, si è data un po' una mossa. E dottoressa Villarini l'avrà letta, abbiamo visto il viso di Adele smagrito, mi faceva notare Deborah che non ci sono ancora foto sull'effetto fisico completo, diciamo, di questa dieta. Vero, dottoressa notato. Villarini, ecco, perdere, anch'io, sì. Ecco, perdere 30 kg non è una passeggiata. No. E ecco, è una cosa molto seria. Non credo che questa sfida la si possa affrontare da soli, e naturalmente Adele, con 20 milioni di singoli venduti, non avrà avuto nessuna fatica ad affidarsi ad un guru. Ecco. Ecco, però insomma 30 kg e non solo, anche dimagramenti un pochino più sostanziosi, insomma, ci invitano a evitare il fai da te. Concorda? Assolutamente concordo, sì sì, non si può perdere tanto peso da soli perché si rischia di fare degli errori, e poi bisogna anche valutare se è necessario perdere tutti questi chili, perché a volte quando si fanno le cose da soli si tende a esagerare. E quindi bisogna sempre farsi seguire da un nutrizionista o da un dietologo che sia esperto per la nostra specifica situazione, e poi è bene sempre che qualcuno ci dica esattamente quale potrebbe essere il nostro peso forma, in maniera tale da non esagerare. Tra l'altro, una cosa, sì. No, dice Adele, credo che fosse in sovrappeso. Ora io sono curiosa di vederla intera, perché 30 kg, non so a livello di fisico quanto può aver inciso. Ecco. Si ha mantenuto il tono muscolare. Appunto, insomma, sì, sono un po' curiosa. Dottoressa Villarini, una cosa è certa: noi ci accorgiamo del peso che perdiamo in una dieta, ma non siamo sempre pronti a cogliere l'aumento di peso. Quando ne prendiamo consapevolezza, spesso abbiamo già messo su quei 4-5 kg che ci fanno passare da una taglia all'altra. Insomma, tornando, proviamo a metterci, no, il pantalone, la gonna autunnale, diciamo, ma come mai si è stretta? L'ultima volta tessuto. Che l'ho portata in tintoria mi hanno stretto la gonna. Dottoressa Villarini, è vero che sì, è vero. Siamo un pochino, ci arriviamo troppo tardi? Ci arriviamo tardi, che poi è sempre più difficile tornare indietro se abbiamo preso tanti chili, ma basterebbe semplicemente pesarsi. La bilancia ce l'abbiamo in casa tutti, ma non occorre pesarsi, anzi non dobbiamo pesarci tutti i giorni o tutte le settimane, altrimenti diventa un'ossessione. Dobbiamo pesarci tipo una volta al mese, giusto per vedere se abbiamo delle oscillazioni che possano dipendere realmente dalle masse, cioè dalla massa grassa, che da un giorno all'altro basta che io bevo un pochino di più o vado di meno in bagno e già posso vedere una variazione nel peso, e non è quella che è interessante. È interessante vedere nel medio periodo, oppure in periodi particolari, come può essere prima delle ferie e dopo le ferie, giusto per monitorare quanto gli stralicci che abbiamo fatto o la maggiore attività fisica, magari siamo dimagrite, siamo più toniche, non lo so, ha inciso sul nostro peso. 800 24 00 24 per parlare con noi di cambiamenti nella vostra forma fisica, nel bene o nel male, perché magari l'estate ci ha scolpito, ma anche di cambiamenti nello stato del vostro benessere. Si torna a lavorare, abbiamo parlato proprio della sindrome da rientro, ma ci sono alcuni disagi che affiorano, alcuni nodi che vengono al pettine. Allora parliamone insieme alla dottoressa Villarini. Abbiamo adesso Deborah che ci racconta delle oscillazioni ancora, e poi daremo subito la parola la Teresa da Salerno, che ci racconta un grande cambiamento: ha smesso di fumare, quindi questo è un plauso sicuramente da Cuore Denari, ma a tra poco. Cuore e Denari. Cambiamo mentalità, cambiamo anche modo di fare la spesa in funzione dei prezzi che troviamo ai supermercati. Noi parliamo di cambiamenti che riguardano il nostro stile alimentare. Siamo qui in diretta da Cibusei Italia presso Expo. In linea con noi abbiamo la dottoressa Anna Villarini, biologo nutrizionista dell'Istituto Tumori di Milano. Dottoressa, continuiamo a parlare di quelle abitudini che dobbiamo riconquistare dopo un'estate in cui, si sa, abbiamo magari fatto un po' di stravizi, oppure di abitudini che vogliamo mantenere, proprio perché ne abbiamo toccato con mano i benefici. Quindi voglio subito coinvolgere i nostri ascoltatori a raccontarci al nostro numero verde qual è il piccolo cambiamento che vi ha dato grande soddisfazione, che cosa avete tolto, aggiunto, modificato per avere, che so, la pelle più luminosa, i capelli più belli, le unghie più forti, la pancia più piatta, l'umore migliore. Scriveteci e chiamateci. E vi annuncio che se invece volete sapere come fare per prepararvi al cambio di stagione, se sentite il bisogno di depurarvi, se vi sentite giù di tono, se volete rinforzare il sistema immunitario, questo è il momento. Restate con noi perché ci verrà a trovare anche il nostro dottor Luca Avoledo, naturopata. Dottoressa Villarini, possiamo anche chiedere ai nostri ascoltatori di segnalarci al nostro numero verde delle variazioni del loro benessere nel corso della giornata, magari la mattina è più faticosa, la sera gambe gonfie, la pancia che sborbotta. Abbiamo già tanti ascoltatori che vogliono un suo consiglio, una sua spiegazione, perché vogliamo sempre informare per poi dare il consiglio migliore. Avevamo anticipato, Teresa ci chiama da Salerno. Un grande cambiamento, sicuramente vantaggioso per la sua salute, ma un cambiamento che si paga. Teresa, buongiorno. Buongiorno, io vi seguo sempre con assiduità e mio marito dice che è quasi maniacale. Io brava Teresa, perché noi, io lo dico sempre, cuore denari crea dipendenza, fatevi, ecco, i vostri conti. Subito due libri sono già partiti. Ecco, Teresa, allora lei... Avevo la dipendenza dalle sigarette e l'aggiungevo, sì, al mio carrello della spesa. L'ho tolto l'anno scorso, ho questo picchetto, diciamo, però come è aumentato il portafoglio, e così sono debitata anche io. Cerco, non ho mangiato di più, assolutamente, però sono lievitata, ho messo su ben 12 kg, per cui non mi ritrovo più. Mi trovo bene con la mia Teresa, pelle. Lei ha fatto benissimo, perché Teresa, la interrompo perché vi hanno tantissimi ascoltatori, la ringrazio, il suo messaggio è chiaro, soprattutto Teresa ha sottolineato che quello del fumo è una dipendenza. E dottoressa Villarini, tra l'altro, lavora all'Istituto dei Tumori, dove c'è il centro antifumo diretto dal, sì, dottor Boffi. Molti fumatori riescono a vincere questa dipendenza, ma poi si ritrovano con qualche chilo in più, tanti come nel caso di Teresa, 12. Il portafoglio ci guadagna, vedi che lettura alla cuore denari Deborah ha fatto. Ma dottoressa Villarini, per chi ha smesso e per chi sta smettendo, che cosa dice la nuova ricerca sulle le possibilità di mantenere il peso nonostante appunto si smetta di fumare, per fortuna? Sì, sì, assolutamente. Per prima cosa voglio dire brava Teresa, perché è proprio importante smettere di fumare, un fattore di rischio per tante patologie il fumo, e quindi brava. Ma certo, si aumenta di peso, anche se non si varia molto l'alimentazione, perché l'aumento di peso dipende dal fatto che il nostro metabolismo si abbassa, cioè quando fumiamo le sostanze della sigaretta vanno a far aumentare i battiti cardiaci, ci fanno respirare più velocemente, quindi accelerano delle funzioni del nostro corpo che usano energia. Quindi smettiamo di fumare, queste cose qui rallentano tutte, quindi consumiamo meno energia e a parità di alimentazione tendiamo ad aumentare. È anche vero che si però fa, allora, che se quali anche sono ci i tetti, sembra... dottoressa Villarini, che ci permettono di dare una sveglia a questo metabolismo che un po' viene un po' rallentato dalla cessazione del fumo? Beh, i cibi che ci aiutano sono quelli che non ci danno tantissime calorie, quindi il cereale, certo, integrale, il legume, le verdure, importante anche la frutta perché contengono delle vitamine che ci aiutano un po' a rimettere a posto il polmone, però non ce la si fa bene se non si abbina all'attività fisica, perché c'è proprio bisogno di muovere il metabolismo, quindi di formare più massa muscolare in maniera tale di rialzare in maniera sana però il metabolismo che prima ci alzava il fumo. Dottoressa Villarini, quindi il consiglio per la nostra Teresa è di abbinare sicuramente un'attività fisica. La invitiamo naturalmente a visitare Cuore Denari perché ci sono dei consigli anche dei nostri esperti per risvegliare il metabolismo. A proposito di cambiamenti, dottoressa Villarini, non è solo la cessazione del fumo, no? Ma anche il tempo ci mette un po' lo zampino. Con gli anni cambiamo, pensiamo al peso di quando eravamo ragazzi e confrontiamolo con quello attuale. Ecco, io vorrei farvi fare questo esercizio non per deprimere, ma per fare qualche considerazione utile che per certi versi potrebbe anche aiutarci a fare un po' di prevenzione e magari innescare qualche cambiamento. Qual era il vostro peso a 18 anni e adesso è aumentato? Siete riusciti a mantenere il peso che avevate da ragazzi? Perché? Non è pura curiosità, dottoressa Villarini. È un pochino fisiologico, perché cambiano i nostri ormoni, cambiano le nostre masse, si mette un pochino più di massa grassa rispetto a quando avevamo 20 anni, però dipende il cambiamento di peso da come eravamo, cioè se eravamo molto magre allora possiamo aumentare anche 5 kg, anche un pochino di più, ma se invece eravamo già in sovrappeso allora dobbiamo stare attenti, perché in qualunque fase della nostra vita noi dovremmo cercare di stare con il nostro indice di massa corporea in quel range che ci dice che siamo normopeso. L'indice di massa corporea è una cosa che tutti possono misurare a casa tranquillamente, perché basta fare il nostro peso diviso la nostra altezza al quadrato, viene un numerino. Se è tra 19 e 25 siamo nella normalità, quando abbiamo 20 anni stiamo più vicini a 19 di solito, andando avanti con l'età ci avviciniamo più a questo, a questo numerino che è 25, non dobbiamo però andare sopra, perché altrimenti si va in sovrappeso, poi sopra 30 si va in obesità, sopra 35 grande obesità. E allora a quel punto veramente la nostra salute poi ha dei rischi e quindi dobbiamo fare questa piccola misurazione. E ricordiamo, dividere il nostro peso per la nostra altezza elevata al quadrato, sì. Il numerino che arriva, ne deriva, se è tra 19 e 25 siamo all'interno, insomma siamo in un range, sì, che in un range è considerato che... normo peso. Sì, poi allora quindi dateci i vostri... dal nostro nutrizionista, certo. Questa valutazione anche su internet si trovano un sacco di siti in cui, esatto, è facile mettere proprio la propria i parametri, diciamo, e sì, calcola, così anche per chi come me ha difficoltà con il calcolo. Io mi stavo mettendo a farlo, io infatti Deborah, ho rinunciato. No, ma Deborah è capace. Non 8, è vero, 800 24 00 24, date i numeri e diteci che cosa avete cambiato e come vi sentite cambiati, perché spesso al ritorno dalle vacanze il nostro intestino inizia a fare le bizze, oppure le ha fatte durante le vacanze, la regolarità è andata un po' a farsi benedire, come si dice. Andiamo ai nostri ascoltatori, perché voglio dare modo alla dottoressa Villarini di raccontare e soprattutto suggerire tutti i suoi consigli per ritornare a stare bene o per mantenere il benessere. Da chi andiamo? Che io sono... Allora, credo che fosse pronta da un po' Laura da Roma, che salutiamo. Laura, benvenuta, qua abbiamo una puntata tutta al femminile, no, beh, poi ci ha raggiunto anche Andrea da Catanzaro. Laura? Buongiorno, sono Laura. Buongiorno, complimenti, Laura. Complimenti per la trasmissione, siete bravissime. Allora, grazie, io volevo esporre il mio problema. Io 3 anni fa mi sono ammalata di artrite, un'artrite sì, reattiva, e non sono mai stata sovrappeso, anzi sono alto 1,65, ho sempre pesato tra i 55 e i 56 kg. In questi 3 anni ho perso quasi 7 kg. Mangiando come al solito, so che l'artrite acidifica i muscoli, per cui è, però io ho perso anche tanto grasso e non riesco a recuperare questi chili, vorrei tanto ingrassare, cioè l'opposto di quello e la cosa solitamente parlando. Ma ha ragione Laura, e la dottoressa Villarini lo sa, è anche un problema che viene molto sentito, perché uno vorrebbe perdere, aumentare di peso, ma naturalmente aumentare la massa magra, non la massa grassa, perché sappiamo che il grasso addominale è un grasso cattivo per la nostra salute. Dottoressa Villarini, le capita di suggerire proprio anche dei percorsi, dei consigli per far sì che i suoi pazienti aumentino di peso e ricostituiscano quindi un normalità che è equilibrata tra massa grassa e massa magra? Da dove si inizia? Calorie che consumiamo, perché ci sono delle patologie che ci fanno l'abbiamo bruciare molto. L'abbiamo un po' persa, molto. Dottoressa, mi scusi, dottoressa sì, Villarini, l'avevamo persa. Ah. Allora, lei stia sì, lì, ferma lì, perché noi dobbiamo lanciare il traffico. Sì, esatto. E poi ritorniamo subito dopo insieme. Ricordatevi che ci raggiungerà anche il dottor Luca Voledo per aiutarci a mettere un po' di natura nella nostra vita e quindi aiutare il nostro sistema immunitario a fortificarsi, oppure a ritrovare quella carica che dopo le vacanze sembra subito perduta. Tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta. Cuore e denari. E così presi una grande decisione. Decisi di riprendere in mano la mia vita e cominciare un diario in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones. Nient'altro che la verità. Decisione numero uno. Oh! Ovviamente perdere 10 kg. Che diavolo fai? Sto vestendo. Perché saltelli travestita da fantasma? Perché non voglio che tu veda le mie ciccette sballonzolanti. Non sempre le ciccette sballonzano. C'è chi, insomma, la ciccetta vorrebbe avere, invece non ce l'ha. Esatto. Ma sono, Deborah mi faceva notare che tantissimi nostri ascoltatori, dottoressa Villarini, ci scrivono di aumenti di perdita di peso enormi, molto importanti. Esatto, c'è un ascoltatore che ci racconta che ne ha persi 30 con una dieta un po' aggressiva, che infatti non stava molto bene. Un altro invece che addirittura ne ha persi 50 con il fai da te, però sta molto bene, evidentemente ha fatto un percorso equilibrato. Quindi ecco, per perdite di peso così importanti, mi raccomando, affidatevi. Assolutamente. Affidatevi. Noi ci affidiamo alla dottoressa Villarini anche per dare un consiglio a chi, come la nostra ascoltatrice, vorrebbe ricostituire un po' di massa magra, aumentare di qualche chilo, naturalmente rinunciando alla ciccetta sballonzolante. Innanzitutto, dottoressa Villarini, quando si notiamo nel giro di poco tempo una perdita di peso così importante, due domande bisogna chiederle, sì, o meglio, una chiacchierata col proprio medico curante sarebbe suggerita, no? Assolutamente, bisogna andare dal medico, segnalare il calo di peso e poi il medico deciderà se è il caso di fare degli accertamenti o no, perché quando il calo di peso è repentino può essere indice di qualche patologia. La signora ce l'ha una patologia perché ce l'ha già segnalata, quindi nel suo caso io direi che la prima regola è variare molto l'alimentazione e poi cercare di aumentare un pochino le calorie che assume, che non dovrebbero essere aumentate attraverso gli zuccheri, perché gli zuccheri poi possono dare problemi infiammatori e lei già ha una patologia infiammatoria, ma magari attraverso dei cibi che contengono dei grassi buoni, per esempio la frutta secca, penso alle noci che hanno anche un po' di omega 3, che così hanno anche una doppia azione, aumento di calorie e antinfiammatoria. Usare abbondantemente, senza esagerare ovviamente, l'olio extravergine d'oliva, consumare pesce grasso perché il pesce grasso è ricco di omega 3, quindi oltre a dare un po' più calorie ed anche una buona quota di proteine importanti, aiuta anche a disinfiammare, cioè aiuta a questa azione antinfiammatoria. Quindi direi di puntare su questi alimenti e sempre sul cereale integrale e il legume come base dell'alimentazione, perché oggi sappiamo che assieme alle verdure sono veramente i cibi più importanti per proteggere la salute e ci aiutano anche a avere dei carboidrati buoni per riprendere peso e delle proteine. Dottoressa Villarini, abbiamo parlato di riso nella prima parte di Cuore Denari. Lei, che è cresciuta nel gruppo del dottor Berrino da anni, direi in tempi non sospetti, raccomandava il consumo di riso integrale. E ricordo che il dottor Berrino suggeriva il riso integrale ridotto a crema per curare un disturbo che è abbastanza tipico di questa stagione. Dottoressa Villarini. Eh sì, la crema di riso è un buon alimento, specialmente se abbiamo un disturbo intestinale che può essere stipsi, può essere gonfiore, possono essere vari disturbi, anche dolori, tipo delle forme lievi di colite, no? Perché è un modo di mangiare delle fibre, ma non troppe, perché quando viene ridotto a crema si passa in un setaccio, quindi molte fibre vengono allontanate, quindi non è un cibo aggressivo. Però rimane all'interno della crema di riso una sostanza importantissima che si chiama tricina, che è legata alle fibre ma passa attraverso il setaccio e che ha un'azione antinfiammatoria locale, quindi quando noi abbiamo un intestino gonfio, una crema di riso ci aiuta proprio lentamente a disinfiammare l'intestino e poi a farci rimangiare poi correttamente tutte le cose senza avere altri problemi, quindi è quasi un rimedio. Quindi si lessa il riso integrale 40-45 minuti e poi come si procede, dottoressa, perché più, così diamo no, anche questa ricettina? Il riso integrale va lessato di più, anche due ore, perché deve anche ridursi molto in poltiglia. Poi si prende un setaccio, un colino, cioè con una cosa, sì, molto a buchi, a fori un pochino stretti, e con un pestello, con un cucchiaio si fa passare questa crema sotto. E poi si questa può assaporire. Te la mangi? Sì, sì, ma si può insaporire, così non è buona, ci si può mettere un po' d'olio, un po' di sale, una purea di uvetta sultanina, cioè altrimenti non è cattiva ma non ha un grande gusto. No, cioè, parmigiano no, non ce lo fa mettere. L'avevamo anticipato, prima di dare la linea ai nostri ascoltatori che vogliono chiedere alla dottoressa Villarini dei consigli per riprendere a stare bene o raccontarci il loro segreto per mantenersi in pieno benessere, salutiamo il dottor Luca Voledo, naturopata, una nostra colonna del Daily Lab. Dottora Voledo, buongiorno. Buongiorno ragazze, come state? Bene, se ci dice ragazze, poi noi stiamo benissimo, vero Deborah? Certo, altro che, qua si sta bene. Allora, no. Dottora Voledo, abbiamo bisogno di 3 rimedi. Uno per chi vuole depurarsi, uno perché si sente giù di tono oppure ha difficoltà a ricominciare, e uno per rinforzare il sistema immunitario, tema a cui noi dedicheremo sicuramente un puntatone, ma intanto chi ha tempo non aspetti tempo. Quindi, dottora Voledo? Quindi eccoci subito. Allora, per aiutare l'organismo ad avvicinarsi all'autunno e magari favorire il lavoro di eliminazione di scorie, di tossine, di cataboliti, una bella tisana, molto facile da preparare. Andate dal vostro erborista di fiducia e fatevi preparare una tisana con 4 erbe, le fantastiche 4. Gramigna, che ha un'azione diuretica, sostiene il lavoro dei reni. Le foglie di carciofo, che depurano il fegato e la cistifelle oltre ai reni, la bardana, che aiuta oltre che al fegato la depurazione della pelle, e i semi di finocchio, che migliorano la digestione e contrastano anche la formazione di gas intestinali, migliorano il transito, danno anche un buon sapore. Si fa un decotto, si aggiunge un cucchiaio di questa miscela a una tazza d'acqua, a una quantità corrispondente a una tazza d'acqua, si accende il fuoco, si fa bollire, si abbassa la fiamma e si lascia sul fuoco per 5 minuti. Poi si spegne il gas, si lascia riposare 10 minuti, si filtra ed è pronto. Due settimane, e questa tisana aiuta al lavoro di depurazione. La tisana dei Magnifici 4. Dottora Voledo, per rinforzare invece il sistema immunitario, per dargli lo sprint, per prepararlo? La mia pianta preferita, che è l'astragalo, Astragalus membranaceus, è una pianta che aiuta proprio in questa stagione, per avvicinamento al momento in cui le temperature si abbassano, e contrastare raffreddori, mal di gola e malattie invernali. È una pianta che deriva dalla medicina tradizionale cinese, ha un lungo uso tradizionale in Oriente, ma è stata ben, come dire, studiata anche in Occidente dalla moderna ricerca scientifica. In questo caso consiglio le capsule di estratto secco, e si prendono una capsula 2 o 3 volte al giorno, anche per periodi prolungati, per sostenere proprio le difese immunitarie. In mezzo secondo, per chi si sente un po' non è ancora capace a carburare, oppure si sente particolarmente stanco? Una pianta adattogena, cioè che migliora la resistenza del corpo ai diversi stress. In questo caso una pianta che deriva dalla tradizione indiana, l'ashwagandha o ginseng indiano. Anche qua prendete le capsule da assumere un paio di volte al giorno, almeno per 3 settimane. Grazie dottora Voledo, siamo andati di corsa e di corsa, nonostante abbiamo tante telefonate di ascoltatori che ci aspettano, dobbiamo salutare la dottoressa Anna Villarini. Possiamo bissarla più presto, direi. Bissiamo al più presto, perché il tempo è scappato, dobbiamo dare la linea. Dottoressa Villarini, lei deve venire qua in carne e ossa. Va bene? È una promessa. Intanto, se avete bisogno di noi, scriveteci. Non abbiamo potuto dare voce a tutte le vostre chiamate, ma Cuore Denari, lo sapete, è sempre a vostra disposizione. Buona giornata, dottoressa Villarini. Grazie molte. Noi naturalmente ritorniamo qua domani puntuali. A Cuore Denari saremo ad Expo anche domani, a Cibus e Italia, lo stand è facilissimo da trovare, ingresso Roserio. Buona giornata a tutti.